Martedì 1 maggio dunque. E allora uno sguardo ai titoli. Beh, i titoli, trionfa Bondi, no? Il super commissario che dovrà tagliare le spese dei ministeri, la spesa pubblica. Bondi commissario ai tagli di spesa, questo è il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, Bondi super commissario per i tagli. Repubblica, governo, un commissario per i tagli. La Stampa, tasse IMU, Monti alza la voce. Poi ci sono il giornale Libero che attacca, no? Il giornale Monti ci prende in giro, Libero, presi per i fondelli. Il Messaggero, via i tagli, Bondi commissario. Ma insomma questo è un po' il tenore, eh? Per vedere qualche altro titolo di altro genere, il Fatto Quotidiano, capitali svizzeri, ora Monti dice sì, mentre l'Unità e il Manifesto aprono sul 1 maggio. Il Manifesto, sconcerto del 1 maggio, c'è una foto del concerto, ma dire quest'anno non c'è festa. E l'Unità, buon lavoro, 1 maggio contro la crisi. A proposito di crisi, a proposito di spese, a proposito di tagli, la casta taglia? Chi lo sa? Intanto la prima pagina di Libero propone due articoli molto interessanti sul tema casta. Il primo firma Franco Bechis, la Camera compra quadri e poi li nasconde, no? Di cosa c'è bisogno in Parlamento? Certamente penserete voi di opere d'arte, di quadri, di sculture, eh? Ebbene, Franco Bechis ne aveva così tante che nemmeno riusciva a esporle, e quando Sgarbi fece un giro nei magazzini di Montecitorio scoprì che erano pieni di opere d'arte di grande valore. Ebbene sì, la casta compra i quadri ma li nasconde, così titola Libero, è un'intera pagina, pagina 9, poi continua. Pensate che ci sono ben 4.700 pezzi da museo nascosti alla Camera, di questi 554 sono prestati da terzi. Il resto è nello stato patrimoniale dei deputati, che se ne fanno poco. Eppure è arrivata l'ultima opera. Per carità, 5.000 euro, non tanto. Un assegnino staccato in favore di Mauro Olivi. Un nome che sembra sconosciutissimo ai critici d'arte. Ma chi è Mauro Olivi? Beh, un ex parlamentare. Ex parlamentare che ha soggiornato per 3 legislature dal 1976 al 1987 in Parlamento. Per questo gode di un vitalizio di 4.277 euro, ma anche maturato in pensione, questo ex deputato comunista, il suo hobby preferito, vale a dire la scultura. E per questo vinse anche nel 2007, fa sapere Libero, il premio sezione arte di una memorabile edizione del premio Agape nel castello di San Gaudenzio di Cervesina. L'onorevole Olivi fu scelto come scultore dell'anno, il cavaliere Pippo Franco, uomo di spettacolo dell'anno, e la dottoressa Antonia Matarrese, giornalista dell'anno. Ebbene, l'ultima scultura opera dell'esimio illustre ex onorevole, vitaliziato con 4.277 euro, Mauro Olivi, è stata comprata dalla Camera con 5.000 euro di assegnino. A proposito di sprechi e di articoli, Libero mette anche in prima pagina questo articolo firmato una deputata. Non si firma. Gli onorevoli sprechi di carta e pelle. Qui la nostra Elisabetta Fusconi, che in redazione è ossessionata dagli sprechi della carta, sobbalzerà. Una deputata si firma, l'esperienza aiuta. Alla Camera ci vivo da 6 anni. Vado, vedo e rifletto. La mia attenzione si concentra su due voci di spesa, carta e pelle. Cominciamo dalla carta. Quando sono arrivata nel 2006, l'azienda mi ha fornito, come se fosse una brava scolaretta, la cancelleria. E a me arriva la cosiddetta dotazione annuale, una marea di scatoloni, centinaia di buste piccole da lettere con l'intestazione Camera dei Deputati che troverò dappertutto, centinaia di buste di media grandezza, bustoni formato A5. Apro un armadio ma è già pieno, continuo ad aprire, una marea di contenitori metallici, 10 li metto nel secondo armadio, gli altri sul tetto della libreria, un pacchetto di cartelline bianche bordate di verde chiaro, utilissime e purtroppo pochissime, poi fogli di carta, rigi isme, formato lettera, letterina, cartoncini, carta per fotocopie. L'armadio scoppia, devo riempire il secondo, continuo ad aprire penne, pennarelli, evidenziatori, cucitrici, forbici, nastro adesivo, gomme morbide e dure, matite, elastici, colle liquide e cremose, post-it, fappunte, matite, CD, DVD, strutturine per archiviarli, un cassetto della scrivania, tutto pieno. Un giorno arriva un collega della regione, vede questo ben di Dio, imbarazzato, mi chiede: posso prendere un po' di matite? Qualche biro? Oh, i post-it, ma guarda, i CD, noi non abbiamo nulla, e se ne va via con uno scatolone pieno. Veniamo ai costi. Quanto può costare una dotazione annuale? Poiché siamo alla Camera in 630, non credo meno di 3 milioni di euro l'anno. Questo solo per la carta. E poi ci sono le agende integre. Ma io ve l'avevo detto, cari ascoltatori, e ce l'ho fatta grazie a Laura Marchesi della redazione della Zanzara. Ho la mia gomma da matitas che mi guarda lì sulla scrivania con la dicitura Senato della Repubblica. Questi della Zanzara si intrufolano ovunque. Io ce l'ho! C'ho la gomma, io sì, e voi no, cari italiani. C'ho la gomma da matita che mi guarda sulla scrivania. Senato della Repubblica. È un po' lisa, un po' consunta, un po' usata, quindi la scritta non si vede bene. Se faccio la foto non ci credete, ma vi assicuro è la gomma del Senato della Repubblica. Io la tengo lì come un feticcio, me la guardo e la esibirò a tutti come segno e simbolo del potere, ovviamente, che io ho e altri no. A proposito di sprechi, c'è anche un articolo su Repubblica che vi voglio citare, che spreco quel video su Meredith, la Corte dei Conti chiede i danni ai PM. Anche questa è una vicenda emblematica, pagina 18, tanto paga la procura, che poi siamo noi. Perugia, per il video di Meredith Kercher, del delitto Meredith Kercher, per cui sono stati poi assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito, era stata commissionata dalla procura a una società specializzata in videografica, la N20IDSRL, quello di fare un video in 4D da proiettare per simulare il delitto. Costo del video 182.000 euro, un video di 20 minuti. Ora la Corte dei Conti ha chiesto i danni alla procura, ai PM. Quel video è costato troppo. I magistrati aprono un fascicolo per verificare se la spesa per il filmato sia stata congrua. E vabbè, apriamo un fascicolo, poi lo chiuderanno, diranno che è congrua e stop. 182.000 euro. Ci sentiamo tra 5 minuti. E allora ho delle straordinarie notizie. Intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato messaggi, stanno andando a lavorare negli ospedali, chi ha già accompagnato la compagna al lavoro alle 6.30, chi da 34 anni mi fa sapere, dopo 32 anni va ancora al lavoro, fortunatamente, scrive. Bene, chi ci ascolta, Maria Giovanna, mi ascolta dal letto, appena svegliata, benissimo, sono contento per voi, ci siete. E poi, se volete andare sulla pagina di Facebook 24 Mattino, l'abbiamo esibita. Carmelo Lauricella in diretta ha fotografato la gomma da matita del Senato della Repubblica Italiana, di cui sono entrato in possesso. E la esibisco lì, è il mio feticcio, è il mio simbolo del potere sulla mia scrivania. Io ce l'ho, la gomma da matita del Senato della Repubblica. Ripeto, la scritta è un po' lisa, ma si capisce, il simbolo è quello del Senato della Repubblica. Poi si scopre che ce ne sono milioni in giro, ma io ce l'ho intanto. Allora, Italia, la spesa pubblica. È stato nominato il supercommissario. Qualcuno, ironizzando, dice: ma come, il governo dei tecnici ha bisogno del supertecnico? Enrico Bondi. Colui che è stato anche il risanatore della Parmalat. Nel 2012 taglio la spesa da 4,2 miliardi di euro. Questa è la prima cifra che dovete tenere a mente e che ieri il premier Monti ha detto verrà inseguita. A pagina 3 del Sole 24 Ore Dino Pesole racconta come nel mare della spesa pubblica c'è una massa aggredibile da 295,1 miliardi di euro. Avete capito bene? 295 miliardi di euro. Di tale mole di risorse si può rivedere nel breve periodo una quota pari al 25%, cioè circa 80 miliardi di euro. Già nel 2012 occorre mettere a punto un piano di tagli per circa 4,2 miliardi di euro, che dunque sono bricioline rispetto alla mole aggredibile di la massa aggredibile da 295 miliardi. Per Monti 4,2 si possono già aggredire nel 2012. È stato messo un decreto legge col quale si fissa al 31 maggio il termine entro il quale ogni ministro dovrà presentare il suo piano di risparmi, cioè i ministri, avete capito bene, dovranno presentare il piano di risparmi. Lo faranno oppure, come già il ministro alla difesa Di Paola da Washington ha tuonato, noi i tagli li abbiamo già fatti? Sta di fatto che è stato nominato il supercommissario Enrico Bondi. Un suo profilo lo trovate a pagina 3 del Sole di Giuseppe Oddo. Commissario per le emergenze lo è da sempre Enrico Bondi. Gli ultimi 20 anni lo hanno visto a capo di gruppi in difficoltà che ha tirato fuori dal guado. Il controllo maniacale dei costi è sempre stata la sua specialità. Ora, a 78 anni, dovrà applicare il suo metodo alla spending review. Dice: ho avuto una grandissima apertura di credito, una fiducia che devo ripagare con azioni, cercherò di essere incisivo, sono stato portato in una struttura che ritengo vincente per il risanamento del paese, farò del mio meglio. Laureato in chimica, ricercatore alla Montecatini, alla Fiat si afferma come top manager tra il 90 e il 93, è responsabile del raggruppamento difesa e spazio del gruppo torinese. Nell'estate 93 Montedison è prossima alla bancarotta ed è a lui che si rivolge Mediobanca per affidargli il comando del secondo gruppo privato del paese. Lì impone una cura dimagrante grazie alla conversione dei crediti in azione e della ristrutturazione del debito accordatagli dalle banche. Poi nel 2001 EDF e Fiat scalano il gruppo. Bondi è dato in partenza per Arezzo, ma viene invece chiamato con un colpo di scena da Marco Tronchetti Provera, che lo designa al vertice di Telecom appena dopo l'OPA di Pirelli sul gigante telefonico. E poi alla fine 2003 la Mission Impossible, per cui forse è diventato più celebre, Parmalat, dove c'è un buco da 13,5 miliardi di euro da risanare. Intanto, la prima buona notizia che ho intercettato da qualche parte: il governo vorrebbe riconoscergli un compenso, o meglio un rimborso spese, perché lavorerà per un anno di 150.000 euro lordi, ma Enrico Bondi ha detto no, lo farò gratis, senza compensi. E vabbè, è già una buona cosa. Dopodiché sono stati nominati Francesco Giavazzi, economista, anche editorialista del Corriere della Sera, come consulente per quel che riguarda le imprese. E tra l'altro il Corriere della Sera fa notare che proprio qualche giorno fa, lo fa notare a pagina 8 in un articolo di Federico Fubini, proprio un editoriale di Giavazzi aveva fatto storcere il naso a Mario Monti. Il tema era quello delle liberalizzazioni, e quindi quando Giavazzi è stato nominato ha capito che il messaggio tra le righe è questo: il premier fa sul serio, non cerca soluzioni comode di facciata, altrimenti avrebbe potuto scegliere una figura silente e burocratica giusto per mettere a tacere le critiche. Invece si è rivolto proprio a uno dei critici suoi intellettualmente più affilati per risolvere il problema dei crediti alle imprese, mentre per la questione dei tagli ai partiti Giuliano Amato un gran ritorno. Altri ironizzando hanno detto insomma il super pensionato Giuliano Amato, vabbè. Intanto Amato dice al Corriere della Sera due frasi: non dovete pensarmi mentre arrivo coi forbicioni in mano a tagliare. E poi ha parlato di in questo breve colloquio con Aldo Cazzullo di questioni anche dei tagli ai sindacati per le esenzioni, la questione di finanziamenti ai sindacati, anche questo è un tema da affrontare, tutto con grande cautela, dice Giuliano Amato. Il messaggio secondo molti è questo: Mario Monti il premier ora è arrabbiato. Repubblica nel retroscena di Francesco Bei lo definisce addirittura nero. Nero nei confronti di chi? Beh, dei partiti e di qualche partito in particolare. Intanto di quei partiti come la Lega, che oggi ha annunciato nel Lega Unita Day la ribellione fiscale, di fatto. E infatti Mario Monti viene definito come all'attacco, sdegnato verso chi istiga a non pagare le tasse. Vorrei cominciare con una parola di sdegno, così ha iniziato il solitamente sobrio e compassato Mario Monti la conferenza stampa. lo sdegno per chi ha governato, chi governa e chi si candida a governare, che non può giustificare l'evasione fiscale, tantomeno istigare a non pagare le tasse o istituire personali e arbitrarie compensazioni tra crediti e debiti verso lo Stato. L'attacco alla Lega è chiaro, no? Chi invita a non pagare le tasse. L'attacco invece, quando riferisce a istituire personale arbitrare compensazioni tra crediti e debiti verso lo Stato, era rivolto al segretario del PDL, Alfano, che in mattinata a Palermo aveva proposto proprio questo, aveva proposto per gli imprenditori che hanno maturato un credito nei confronti dello Stato di non pagare le tasse fino all'ammontare del credito che spetta loro da parte dello Stato. E questa è definita una arbitraria e personale compensazione tra crediti e debiti dello Stato. Insomma, Monti che attacca Lega e Popolo della Libertà. Un Monti definito nero. Adesso basta, così avrebbe iniziato il Consiglio dei Ministri dicendo: insomma, non abbiamo fatto la concertazione con i sindacati sul tema delle pensioni, sul tema del mercato del lavoro, li abbiamo ascoltati, ascoltiamo anche i partiti, ma poi decidiamo noi. Ormai il Premier considera, scrive Francesco Bei su Repubblica, inaccettabile il livello di pressione arrivato sul suo governo. A guastargli la festa proprio sia Bobo Maroni con l'invito alla rivolta fiscale e sia Alfano con la proposta, considerata da Monti irresponsabile, di compensare i crediti verso lo Stato con un'automatica autoriduzione delle imposte. Anche per la stampa l'ira del professore per la pressione dei partiti, trovate il retroscena di Fabio Martini a pagina 3. Dall'altra parte, giornali orientati al centrodestra come Libero e Il Giornale lo attaccano. Super Mario ci prende in giro, così Vittorio Feltri nel suo editoriale, e ormai ci prendono per i fondelli invece Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Questo è il titolo del suo editoriale. D'altronde il tema dell'IMU è molto caldo. Per i comuni, IMU a rischio entrate. Oggi Il Sole 24 Ore è a pagina 13, secondo l'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni, le città perderanno in media il 30% rispetto alle risorse garantite dall'ICI. C'è anche un'intervista a Graziano Del Rio, che è il presidente dell'Associazione dei Comuni, nonché il sindaco di Reggio Emilia. L'accusa dei comuni è questa: l'hanno chiamata imposta municipale, ma di municipale c'è poco. I cittadini pensano di pagare un'imposta che rimarrà ai comuni, invece parte di questa imposta andrà allo Stato. E anche il sindaco di Reggio Emilia Del Rio dice in questa intervista a Gianni Trovati sul Sole 24 Ore: ci lascino il gettito e addio trasferimenti, bisogna restituire all'IMU la sua natura originale, ora invece c'è una patrimoniale occulta statale. Intendiamoci, il governo ha il diritto di fare una patrimoniale, ma non deve confonderla con l'imposta municipale. I cittadini devono avere chiaro a chi vanno i soldi e come vengono spesi. Detto questo, però, l'ANCI non è per la rivolta fiscale, per la disobbedienza fiscale come invece i sindaci della Lega. Ma a proposito di tasse, c'è un interessantissimo articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera che riguarda Equitalia e i premi da rivedere. Da qui ripartiamo tra un attimo dopo il traffico. Grazie davvero ancora a tutti quelli che mi mandano messaggi al 349-238-6666 per dire siamo qua. Non so, Rossana per esempio, Alberto da Torino, c'è chi è contento, un po' invidioso come Daniela dalla provincia di Udine della mia gomma del Senato, che è lì. E chi voleva vedere la scultura che invece alla Camera hanno pagato 5.000 euro di tale ex deputato Olivi, ho già dimenticato il nome di questo artista imprescindibile, insomma il Michelangelo moderno, ma 5.000 euro pagati dalla Camera. Sta di fatto che tasse, Equitalia. Oggi Sergio Rizzo racconta una cosa che io non sapevo, nella mia beata e somma ignoranza, e che invece tutti quelli che hanno una cartella esattoriale di Equitalia che gli arriva a casa e che hanno fatto i calcoli forse già lo sanno. Equitalia e quei premi da rivedere. È il tema dell'aggio. Allora, Equitalia applica sulle cartelle un aggio del 9%, scrive Sergio Rizzo a pagina 5. In precedenza gli esattori privati incassavano 500 milioni l'anno indipendentemente dalle somme riscosse. Era un'assurdità, ma anche il 9% non è uno scherzo. Nei primi 60 giorni, inoltre, l'aggio grava per il 4,65% su chi deve pagare, voi italiani. e il 4,35% sull'ente impositore, il comune, l'ente di previdenza o l'agenzia delle entrate. Trascorsi questi due mesi è tutto a carico del debitore, dunque l'aggio del 9% grava su chi deve pagare. Questi poi, il debitore, deve pagare una sanzione a cui si sommano gli interessi intascati tutti dall'ente. Interessi profumatissimi. L'Agenzia delle Entrate applica il 5% annuo, ovvero l'interesse legale, cioè il 2%, maggiorato di 3 punti. Ma i comuni hanno la facoltà di arrivare al 10% l'anno. Voi capite l'effetto moltiplicatore sulla cifra iniziale di una multa contestata di un simile marchingegno? Evidente, non solo per quanti hanno deliberatamente evitato di pagare, dunque evasori, chiamiamoli così, ma anche chi ha perso una cartella. Chi ha smarrito la ricevuta, non potendo dimostrare di aver già onorato i propri impegni, deve pagare di nuovo con questo aggio che poi si moltiplica, gli interessi. E veniamo ai premi. Questo è un altro aspetto di Equitalia molto interessante. Il personale di Equitalia ha diritto a una gratifica commisurata ai risultati che è compresa in quell'aggio del 9%. Cioè una parte di questo aggio va per gratificare i dipendenti di Equitalia che riscuotono le multe, ma un premio per la lotta all'evasione fiscale viene intascato anche dai dipendenti di Agenzia delle Entrate, Dogane, Territorio, Monopoli di Stato, Tesoro, Finanza, Ragioneria. Sintesi, si becca il premio anche chi con la guerra agli evasori non c'entra un fico secco. Questo, scrive Sergio Rizzo, lo diciamo per esempio allo Stato. Lo consegniamo come riflessione al governo, certi che la strada per far assumere contorni più civili al travagliato rapporto tra fisco e cittadini italiani passa anche da qua. Non è il caso di rivedere tutto questo, l'aggio e i premi, si chiede Sergio Rizzo. Intanto i partiti sono alle prese con beghe interne. Stiffoni è stato espulso dalla Lega perché sono nel mirino alcuni prelievi dal conto del partito del Senato, cioè avrebbe prelevato soldi dal conto dei senatori. È stato espulso sui due piedi dalla Lega. E poi, allora, Beppe Grillo, questa uscita sulla mafia. La mafia che non strozza mentre lo Stato strangola i suoi cittadini. C'è stata una rivolta. Grillo non si pente. Benvenuto nella politica, Beppe Grillo, nell'agone politico. Grillo non si pente sulla mafia, così titola Repubblica con Gabriele Isman a pagina 10. E su questo vi vorrei leggere in prima pagina Marco Travaglio oggi sul Fatto Quotidiano, il bue e il grillo. Grillo non mi piace, scrive Travaglio, quando dice che bisogna uscire dall'euro. Non mi piace quando dice che i programmi TV sono tutti uguali, perché il report non è uguale a Porta a Porta. E Santoro con servizio pubblico fa esattamente quello che lo stesso Grillo suggeriva da anni, uscire dal regime Raiset. Non mi piace quando attacca Giancarlo Caselli per gli arresti dei pochi violenti in Val di Susa. Non mi piace quando dice che se pagassimo tutte le tasse i partiti ruberebbero il doppio. Invece mi piace per tutte le altre battaglie. L'altro giorno a Palermo, a leggere almeno i giornali, l'ha detta grossa Beppe Grillo: la mafia non uccide, lo Stato sì. I parenti delle vittime di mafia sono insorti, e giustamente. Se Grillo avesse detto davvero che la mafia non uccide, avrebbero avuto ragione da vendere, ma per fortuna non l'ha mai detto. Azzardato un altro paradosso. Prima ha osservato che un governo di transizione avrebbe dovuto fermare il debito pubblico, mettere un taglio alle pensioni d'oro. E poi ha aggiunto: la mafia non ha mai strangolato il proprio cliente, gli prende il pizzo del 10%. Qui la mafia, intesa come il governo, strangola le proprie vittime. Il senso della provocazione era chiarissimo. Ma dice Marco Travaglio, praticamente i partitanti di destra, centro e sinistra, non è parso vero a loro di potergli dare, oltre che del demagogo, antipolitico, fascista, nazista, anche del mafioso. Ma dai, siamo seri. Chi ha ospitato e rilanciato sul blog le manifestazioni, le battaglie delle agende rosse di Salvatore Borsellino? Chi, quando non ne parlava nessuno, ha denunciato le trattative Stato-mafia? Chi ha difeso i magistrati di frontiera? Grillo. Prima di dargli del mafioso il PDL, pensi all'eroe Mangano. Bersani pensi al compagno Crisafulli, filmato da una telecamera nascosta mentre abbracciava il boss Bevilacqua, e al compagno Lombardo, inquisito per fatti di mafia. Il terzo polo pensi ai suoi Cuffaro e Romano, i classici buoi che danno del cornuto al grillo. Così Marco Travaglio, ma certo questa esternazione di Beppe Grillo ha fatto e fa discutere. Segnalo una lettera di Don Julián Carrón, leader di Comunione e Liberazione, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, che sulla vicenda delle inchieste che coinvolgono non perché indagato, ma perché chiacchierato, le vacanze, eccetera, Roberto Formigoni, scrive una lettera a Repubblica. Caro direttore, leggendo in questi giorni i giornali sono stato invaso da un dolore indicibile nel vedere cosa abbiamo fatto della grazia che abbiamo ricevuto. Se il movimento di Comunione e Liberazione è continuamente identificato con l'attrattiva del potere, dei soldi, dei stili di vita che nulla hanno a che vedere con quel che abbiamo incontrato, qualche pretesto dobbiamo averlo dato. Il dolore di Carrón, chi ha sbagliato umilia il movimento. Questo è il senso della lettera che trovate su Repubblica. Devo chiudere alle 54? Sì, 55. Ah beh, allora ho tempo un minuto e mezzo. Noi parleremo, ricordo questo, di vivisezione con il Blitz a Green Hill, questo canile dove si allevano cani per laboratorio. C'è stato un blitz di animalisti, sono stati tutti rilasciati e ci sono le polemiche. È giusta la sperimentazione anche sugli animali per poi sperimentare farmaci che devono essere poi utilizzati dagli uomini? Il tema della vivisezione ne parleremo alle 8:30, ma voglio chiudere con una pagina che mi ha incuriosito tantissimo, di pubblicità su Libero, a pagina 13. Uno sfoglia, a pagina 13 di Libero trova questo, lettera aperta al dottor Michele Ferrero. Caro signor Ferrero, ho letto della multa americana contro la sua Nutella. Dicono che il suo prodotto contenga troppe calorie che faccia ingrassare. Dicono che la Ferrero doveva comunicare meglio ai consumatori d'oltreoceano le caratteristiche del suo prodotto. Io penso il contrario. E aggiungo di più. Io, mia moglie, i miei figli, le mie nipotine abbiamo sempre mangiato, mangiamo e continueremo a mangiare Nutella. Io, mia moglie, i miei figli e le mie nipotine siamo orgogliosi di lei e della sua Nutella, uno dei principali ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Non molli mai. Firmato G.A. Un cittadino che ha comprato una pagina di Libero per dire questo sulla Nutella. È proprio il 1° maggio, giornale radio.